non voglio amare per non penare. Camo seguendo di duol sen va, l'alma struggendo di pene amare. Non voglio amare, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Non voglio amare, no, no, no, no. Chi vive amando, se c'è tuo amore, se c'è tuo amore, com'è che il mio? Il mio amore non può mirare, non può provare, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Non può provare, no, no, no, no. Fuggir volio, quest'empio rio, s'amore culo, com'è che il mio? Non vuoi chiamare,